Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Comme les bulles de champagne, personne ne paraît ce qui arrive. Je ne peux pas aller à mi-chemin, je ne vais pas m'arrêter. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Buongiorno, buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione, come ci piace dire, per vivere, pensare e agire cruelty free, o anche, se preferite, per una società non violenta. Questa è la nostra puntata numero 457, nella quale parleremo di delfini, vittime degli stabilimenti balneari, bambini, vittime della caccia, ma anche del Vegan Day, di tigri, elefanti, musica e cucina. Speriamo di avervi incuriositi. Questa puntata al delfino senza nome, vittima del maltempo e degli interventi umani che gli sono stati fatali. Il delfino è morto sulla spiaggia di Ostia, spinto a riva dalle forti mareggiate. Il povero animale deve avere sbattuto violentemente contro la struttura di legno di uno stabilimento balneare, restando incastrato sotto la pedana. A nulla è servito l'intervento dei volontari della sezione EMPA di Roma, accorsi sul posto dopo aver raccolto diverse segnalazioni. Quando sono arrivati, il delfino, immobile e semicoperto dalla sabbia, era già deceduto. Un altro segnale della dannosa appropriazione umana del territorio e delle spiagge. Novembre è stato il World Vegan Day. Nel 2003 una attendibile statistica del Dipartimento Agricolo delle Nazioni Unite parlava di 53 miliardi di animali all'anno nel mondo, sacrificati a solo scopo alimentare. A denunciare l'insostenibilità della condizione animale è oggi un vasto movimento che propone un nuovo patto tra la società umana e gli altri viventi basato su libertà e rispetto. Il servizio sul World Vegan Day 2018 è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Donald Watson coniò la parola vegan nel 1944, a Seconda Guerra Mondiale ancora in corso. E si potrebbe pensare a una bizzarria, perché in tempi così difficili, anche sul piano alimentare, preoccuparsi di ridefinire che cosa debba intendersi per cibo davvero vegetariano può apparire quasi blasfemo. In realtà abbiamo poi capito che Watson guardava lontano. Proprio nel bel mezzo di una guerra tanto distruttiva occorreva pensare al dopo, e la sua proposta andava in una precisa direzione, la riduzione della violenza, attraverso anche le proprie scelte personali. E l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale aveva mostrato oltre ogni immaginazione dove la violenza può portare. Ma qual è oggi, a oltre 70 anni di distanza, il significato della scelta vegan che viene compiuta nel mondo ormai da milioni di persone? Non c'è naturalmente una risposta univoca, tutt'altro. Diciamo pure che la scelta vegana di per sé è compatibile con visioni del mondo assai diverse fra loro, anche quando alla base della scelta vi sono motivazioni etiche e politiche, e non banalmente salutistiche. Conosciamo vegani di destra e di sinistra, vegani in pantofole, vegani in prima linea nell'impegno politico e civile, vegani animalisti e vegani indifferenti. Anche le discussioni culturali e i punti di vista filosofici possono svilupparsi in direzioni assai distanti una dall'altra, per non parlare delle strategie di azione pubblica. C'è chi è convinto che il vegan si affermerà da solo, perché è razionalmente utile, anzi necessario, alla sopravvivenza del pianeta. Chi scommette sulla crescita dei vegani praticanti attraverso l'informazione e la solleticazione del palato. C'è chi vede nella scelta vegan un volano di cambiamento solo se e in quanto parte di un più vasto movimento sociale e politico. Perciò a noi sembra difficile considerare la scelta vegan come una identità. Ha poco senso parlare dei vegani come se fossero un organismo o un'entità coesa. Ha poco senso anche parlare di movimento vegano, vista la varietà dei punti di vista, degli obiettivi, delle forme di intervento sociale e politico, ammesso che intervento sociale e politico vi sia. Quando si parla della scelta vegan, conviene quindi collocarla di volta in volta nel contesto storico e sociale in cui si dispiega, rinunciando a ogni generalizzazione. Normalmente, quando non è solo un'opzione privata, la collocazione è all'interno del movimento animalista, a sua volta suddiviso in numerose anime, fermo restando che si può essere vegani e non animalisti, ma anche animalisti e non vegani. Per questa redazione, grosso modo, ma con sfumature significative fra una persona e l'altra, la scelta vegana è una testimonianza di vita e di impegno all'interno di una più larga visione del mondo, ossia nell'ambito di un generale progetto di giustizia sociale, un progetto esteso a tutti i viventi, piante incluse, con le varie, specifiche e diversissime esigenze di ciascuna specie e forma di vita. Al fondo c'è un'idea forte di convivenza e cooperazione fra viventi, oltre i confini di specie. Insomma, un ribaltamento dei valori e delle forme di dominio oggi correnti. Parliamo niente meno che di un nuovo patto per la vita sul pianeta. Un famoso motto di Gandhi diceva: sì, il cambiamento che desideri vedere nel mondo. In questo senso l'opzione vegana è un passaggio ineludibile. Ma c'è un altro insegnamento del Mahatma altrettanto e forse più importante: l'idea della non violenza come prassi politica che rifiuta e combatte ogni forma di ingiustizia e sfruttamento. Nessun uomo, diceva Gandhi, può essere attivamente non violento e non ribellarsi contro l'ingiustizia sociale ovunque si verifichi. E dovunque, per chi abbia a cuore la sorte di tutti i viventi, vuol dire proprio dovunque. In occasione del World Vegan Day, celebrato il 1 novembre scorso nell'anniversario della nascita della Vegan Society inglese fondata da Donald Watson, il nostro Giuseppe Coco ha intervistato Leonardo Caffo, autore del libro Vegan, un manifesto filosofico. Che pubblico ha rivolto il libro Vegan? Ma è rivolto a tutti, come dovrebbero essere tutti i libri. Nel momento in cui li scrivi non sai chi arriva, quindi ti devi preparare al lettore generico. Quindi è rivolto a tutti. Come lo possiamo attuare nel quotidiano? Ma nel quotidiano, certo, nel momento in cui chi ha fatto parte dei primordi di questa filosofia e anche delle conseguenze che ha avuto da un punto di vista pratico, sa che nel momento in cui si è costruito un laboratorio concettuale che adesso sta andando a morire, o si apre e ne discutono tutti oppure implode. Quindi nel quotidiano si tratta di fare dei compromessi, delle contingenze, dei piuttosto. Significa smettere di pensare che il mondo possa essere come lo vuoi tu e capire che rispetto a com'è ti devi mettere a lavorare. Concetto veganesimo è contemporaneo. È contemporaneo nel momento in cui prendo la definizione di contemporaneo che dà questo filosofo, che si chiama Giorgio Agamben, per cui è contemporaneo ciò che è in relazione col proprio tempo perché ne è intenzione, cioè in qualche modo lo critica, lo comprende e cerca un po' di spingerlo in avanti verso un tempo seguente. il veganesimo è contemporaneo perché dalla sua soluzione dipende letteralmente lo stato di cose future. Se va male tutto fallisce, se va bene tutto fallisce per migliorare, per cui comunque vada alla fine il mondo dovrà scontrarsi con questo concetto. Perché essere vegan? Bisogna essere vegan perché è un'idea di giustizia universale nei confronti delle forme di vita che non sono umane, dell'ambiente, degli animali, della capacità di regolare le risorse future. In realtà prima o poi lo saremo senza che si chiami più vegan. Gli animalisti o chi per loro vorrebbero che questo movimento arrivasse prima dell'inesorabile in cui arriverà per tutti. Leonardo Caffo, Vegan, un manifesto filosofico, edizione Einaudi, 12 euro. Restiamo in tema Vegan Day per una notizia di attualità. È aumentata del 15% in un solo anno la domanda di agriturismi con ristorazione vegetariana e vegana. Lo rileva un'indagine realizzata da agriturismo.it in occasione del World Vegan Day del 1 novembre 2018, la giornata in cui in tutto il mondo si celebra e si promuove uno stile di vita veg. Cresce dell'8,5% su base annua la domanda di strutture ricettive in grado di soddisfare le richieste di chi non mangia né carne né i derivati animali. Il settore si sta velocemente adeguando a queste richieste. Le regioni che stanno recependo più in fretta il cambiamento sono Umbria, Sicilia e Toscana, che catalizzano insieme il 32% dell'offerta totale. Seguono Lazio, Puglia ed Emilia-Romagna. Quindi sì ai soggiorni ecosostenibili e anche cruelty free, perché la crudeltà è sempre e comunque insostenibile. Il brano di oggi è un punto d'incontro tra il World Vegan Day, Halloween e la festa del 2 novembre, ovvero i morti. La colonna sonora del rifacimento di Suspiria a cura di Tom York. E non aggiungo altro. Buon ascolto! Spinning here. Malgrado non ci sia alcuna prova scientifica del loro valore terapeutico per la salute umana, il governo di Pechino ha legalizzato l'uso di ossa di tigre e corni di rinoceronte per scopi medici. Secondo questo tragico annuncio, le parti animali in questione possono provenire però solo da esemplari allevati in cattività nelle cosiddette farm o fattorie. I conservazionisti però sostengono che questa sorprendente decisione aprirebbe un'ondata di attività illegali e minaccerebbe specie vulnerabili in natura. Rinoceronti e tigri sono animali in via di estinzione e il loro commercio è proibito. La decisione della Cina è in netto contrasto con le politiche messe in campo dallo stesso paese della Cina negli ultimi anni per contrastare il bracconaggio. La ragione per cui la Cina ha intrapreso questo passo però non è chiara. I funzionari cinesi non hanno ancora risposto alle richieste di chiarimento. Però il numero crescente di allevamenti di tigri nel paese e gli sforzi che sta facendo la Cina per riuscire ad allevare i rinoceronti potrebbero essere un fattore chiave. Il corno di rinoceronte è costituito da cheratina, una proteina che si trova nelle unghie e nei capelli. Si afferma che il prodotto servirebbe a trattare tutto, dal cancro alla gotta, quando è consumato sotto forma di polvere. In realtà non ci sono benefici comprovati per gli esseri umani. Nella migliore delle ipotesi, sostiene l'articolo che stiamo leggendo, c'è qualche riscontro che il corno di rinoceronte possa funzionare da antipiretico nei roditori e noi della redazione di Restiamo Animali non vogliamo sapere che tipo di ricerche sono state fatte sui poveri roditori per affermare questo. Certamente ci sono farmaci più economici e facilmente disponibili come il paracetamolo o l'aspirina, che sono ottenibili anche in laboratorio con procedure di sintesi senza dar noia agli animali, che sono sicuramente molto più efficaci. Si dice anche che le ossa di tigre ridotte in polvere e trasformate in una pasta siano utili per trattare vari disturbi tra cui reumatismi e mal di schiena, però la comunità scientifica afferma che non esistono prove a riguardo. Dal nostro punto di vista, sinceramente, il fatto che questi pezzi di corpi animali derivino da animali liberi in natura oppure da allevamenti appositi non fa nessuna differenza. Noi pensiamo che semplicemente la società umana non abbia il diritto di impossessarsi della libertà e della vita dei pezzi dei corpi di altri viventi. Pensiamo che la società umana si stia sempre più dimostrando una sorta di parassita degli altri animali e non c'è differenza per noi se questo accade per la cosiddetta vera scienza, che utilizza regolarmente animali per fare esperimenti scientifici, oppure per medicine tradizionali come per esempio la medicina tradizionale cinese. Per noi la differenza non c'è, c'è solo una realtà, cioè la violazione e l'abuso continuo dei corpi e della libertà degli altri animali. Domenica scorsa, il 28 ottobre, un bambino di 9 anni è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale materno-infantile Salesi di Ancona dopo essere stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un proiettile da caccia. Il fatto è avvenuto a Osimo, in provincia di Ancona. Il bambino aveva accompagnato il papà a caccia con amici e il gruppo si trovava appostato con i fucili nei pressi di un capanno in cemento appositamente utilizzato per la caccia all'anatra. Un amico del padre ha premuto il grilletto verso una preda, ma i pallini hanno raggiunto il bambino di 9 anni, forse perché hanno rimbalzato sul muro del capanno. Molto curiosa è stata la reazione del padre, che ha caricato il figlio in macchina senza allertare i soccorsi nelle autorità e l'ha portato prima a casa, poi all'ospedale. Quando la notizia si è diffusa, il padre cacciatore si è scagliato anche contro la stampa, chiedendo di sapere, con un atteggiamento abbastanza aggressivo, chi avesse diffuso la notizia e minacciando di contattare l'avvocato. Ha anche diffidato l'azienda sanitaria dal diffondere notizie sulla vicenda, vicenda che però, coinvolgendo un minore, è stata comunicata d'ufficio alla procura dei minori, dato che un minorenne non dovrebbe essere messo a contatto con le armi. Il fucile, un sovrapposto calibro 12, è stato sequestrato. Il padre ha anche insistito ad affermare che si fosse trattato di un incidente e ha dichiarato che non intenderà mai denunciare il cacciatore che ha sparato perché è un suo amico, e ha dichiarato anche di non essere un genitore incosciente. Le vittime per armi da caccia dal 1 di settembre al 31 ottobre 2018 sono attualmente 32, di cui 8 morti e 24 feriti. Questo riguarda entrambi gli ambiti, cioè l'ambito venatorio e l'ambito extravenatorio. Si tratta di vittime per armi da caccia. In ambito venatorio i morti sono 5 e i feriti 22, di cui 2 bambini. Questo dall'inizio della stagione di caccia, dal 1 settembre al 31 di ottobre. I'm a fool for the shake in your thumbs. I'm a fool for the sound in your sons. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay. Pool held in your arms, caught like a fool without alarm. We're in a natural spring with this gentle sting between. Anche questa settimana la rubrica di cucina Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, è a tema. Sentiamo la proposta del nostro super chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Non manca molto a Natale, come si dice qua, se tu lo chiami e risponde. E allora, quale migliore ricetta da dedicare a Donald Watson e alla Vegan Society, se non quella dei gingerbread, i famosi biscotti allo zenzero? E poi, diciamoci la verità, quanta soddisfazione per un vegano nel mangiare un biscotto a forma di umano? Oh, e si fa il chiasso, eh? Ecco gli ingredienti per una decina di gingerbread. Per la pasta dei biscotti, 240 g di farina 00, 80 g di margarina autoprodotta o burro di soia, 100 g di zucchero di canna, 50 g di acqua o latte vegetale, un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato oppure zenzero in polvere, un pizzico di chiodi di garofano macinati, un pizzico di noce moscata in polvere, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di curcuma in polvere, 4 g di crema al tartaro e un pizzico di sale fine. Mentre per la glassa, 150 g di zucchero a velo, acqua calda e qualche goccia di succo di limone. Preparate la pasta dei biscotti mescolando tutti gli ingredienti assieme e lavorando con una planetaria o con le mani possibilmente fredde. Non lavorate a lungo per evitare che l'impasto diventi elastico, altrimenti i vostri biscotti saranno poco friabili. Una volta ottenuta una pasta liscia e compatta, avvolgetela nella pellicola e fatela riposare per almeno 30 minuti in frigorifero. Quindi stendete la pasta ad un'altezza di un centimetro circa e ricavate dei biscotti a forma di omino. o se preferite delle forme natalizie. Sistemate in una placca su carta forno e fate cuocere a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Una volta cotti, fate raffreddare su una griglia. Nel frattempo preparate la glassa mescolando lo zucchero a velo con qualche goccia di limone e acqua calda, fino ad ottenere una crema liscia e densa. Con l'aiuto di un cornetto di carta o con una sac à poche decorate i vostri biscotti con la glassa. Se volete appendere i gingerbread all'albero di Natale, prima di infornarli fate un foro con una cannuccia sulla testa dell'omino ed una volta cotti e freddati passate all'interno un nastrino colorato. On the downs and little white clouds like a gambling lens, and I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a thrill. No more, mai più, dopo l'indagine dell'associazione animalista internazionale PETA, la Thailandia dice addio alle partite di polo con gli elefanti. L'organismo che le organizza, la Thailand Elephant Polo Association, ha infatti annunciato che non terrà più alcun torneo e cesserà ogni attività. Tutto questo accade perché è uscita una recente inchiesta dell'organizzazione no profit a sostegno dei diritti animali PETA, che ha denunciato gli abusi sugli elefanti impiegati in queste attività. Per addestrarli al gioco, infatti, gli elefanti vengono sistematicamente incatenati e percossi per periodi che possono durare giorni o addirittura settimane. Di questo ha informato il mondo la PETA nel suo sito internet, pubblicando anche molta documentazione e molte fotografie. Non si capisce quali fossero le convinzioni delle persone, forse pensavano che gli elefanti si divertissero a giocare a polo e che docilmente, in maniera mansueta, si adattassero a questo sport per scelta? Rimarremo con questo dubbio, con questa perplessità. Intanto, grazie al coraggio dell'inchiesta di PETA Asia, una decina di sponsor hanno rescisso i loro contratti con il King's Cup Elephant Polo Tournament, tra questi Angus Energy, Banfi, Campari Group, Ecolab, IBM, Johnny Walker e Vespa. Questi importanti brand hanno voluto naturalmente prendere le distanze dalle violenze sugli animali mostrati al mondo da PETA e anche grazie alla loro rinuncia a finanziare i tornei di polo su elefanti, la Thailand Elephant Polo Association ha deciso di cessare queste attività. Ciò dimostra come un buon lavoro d'inchiesta, una buona documentazione e la pressione sugli sponsor di tante manifestazioni crudeli può portare il movimento animalista a ottenere risultati concreti. E siamo in chiusura. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 458 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.